Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Inizio l'addizione, credo. 12, 13. Guardate laggiù i topi. 14, 15. 16. Aspettate, regà, faccio il video. Sì, 16. Sono stato da dietro. Io sto a riprendere. Ecco! Regà, questo è un video clamoroso. Ecco! Mettilo su Facebook. Sì, sì. E taggami. Pure a me taggami. Senti. Quanto devo salvare il telefono? No! No! 23, 24, 24. Oh, e levatele da sta ferita! 25! No, sì, sta. Ecco. Fai il video, prendili bene. Cioè, sono 25 topi in 5 minuti, ragazzi. Vi rendete conto dello schifo a Torbella Monaca? E questo lo mandiamo all'ama, così vede lo schifo. E glieli portiamo a casa i topi. Vi ricordate i ragazzini di Torbella Monaca che avevano trovato una colonia di topi, ci giocavano come si gioca, che ne so, con i gattini appena nati, via dicendo, però con un intervento malevolo, avete sentito? Volevano registrare, l'hanno fatto, portare la prova dell'intopimento del loro quartiere e mandarlo all'ama. Ci vedete quanti topi, che schifo. Però ci giocavano, erano divertiti, e gli correvano dietro. La scena era divertente, allo stesso tempo agghiacciante, dei bambini che giocavano in un angolino del loro quartiere in mezzo a dell'immondizia, e c'erano questi topolini che pullulavano e correvano qua e là. Topolini erano sempre lunghi un paio di palmi l'uno, ma capita spesso, a me è capitato prendere un gelato una bella sera primaverile in un quartiere bellissimo, dico, ero Piazza Colla di Rienzo, vicino al Tevere, prendevo questo gelato, chiacchieravo, non mi ricordo, un'amica, stavo un amico, non so, e diciamo, che belli, guarda quei passerotti sotto l'albero come saltellano, ma vicino qua non sono passerotti, era lì una nidata di topolini che saltellava felice, ma saranno stati 30, 40, 50, e a vederli pullulare così uno prendeva contatto con la natura. Ma fu tanto che il neo sindaco Virginia Raggi, la prima cosa che fece, andò a Torbella Monaca appena eletta, proprio andare a vedere nel luogo del ritrovamento topesco. Ora, di topi si parla molto, i topi sono un gran problema, anche oggi nei giornali diventano anche elemento di contrasto politico. È un dato di fatto che le grandi metropoli del mondo sono invase da topi, pullulano di topi, nel sottosuolo ci sono non so quanti topi a testa per ogni essere umano, e ogni tanto vengono anche a prendere una boccata d'aria in superficie. È un problema che ha New York, un problema che ha Parigi, un problema che ha Milano, è un problema che ha sicuramente Roma. La cosa che mi meraviglia è che nei confronti dei topi le azioni da fare sono azioni ben precise, servono delibere, vedo che per avere le delibere poi ci sono dei problemi, servono persone specializzate e servono azioni, e c'è poco da dire, di sterminio. I topi vanno sterminati, non c'è altra maniera, vanno regolamentati. La cosa che mi sorprende, ma nemmeno tanto, è che chissà perché sui topi nessuno fa campagne salviamo fratello topo, nessuno dice altrimenti, comportiamoci altrimenti, non so, educhiamoli a non dare fastidio, impariamo a convivere con i topi, invitiamo i topi a cena, ma tanto ci vengono comunque, perché lasciate qualcosa a spasso di commestibile, un po' i topi arrivano, è normale, siamo abituati a vederne di tutti i giorni. È molto interessante nella città di Roma dei nuovi spettacoli circensi, gabbiano contro topo, gabbiano contro piccione, ne abbiamo già parlato lungamente, il gabbiano prende il piccione, lo porta sul tetto di una macchina e lentamente lo depezza sul tettino della macchina, tutti guardano e filmano con lo smartphone, ma anche con il topo fanno delle belle battaglie, tanto si vede un gabbiano, soprattutto la mattina presto, che si è preso un bel sorcione grosso, ma bello grosso significa grosso quanto un cotechino, facciamo conto. Immaginate il cotechino che voi fate a Capodanno, mettetegli le zampe, la coda, il musetto, i baffettini carini, è un topone. Roma di questi toponi ce ne sono tanti, li vediamo, ogni tanto vediamo correre, tu pensi che è un gatto, poi un attimo dici ma no, non potesse un gatto, scusa, mai visto un gatto con la coda così fina e lunga, era un topo. 800240024, cosa sapete voi dei topi che invadono le città? Non i topini di campagna, quelli carini, quelli saggi, del topo di campagna e del topo di città, no, i toponi che in città in realtà non ci dovrebbero stare. Io mi sono accorto con grande ribrezzo che nel cortile interno del mio condominio ci sono degli strani oggetti gialli con scritto sopra derattizzazione. Non ho ben capito, non mi sono avvicinato perché temo che siano una sorta di trappole per topi, magari dentro pullulano i topini e potrei essere anche mosso a pietà per i poveri topini prigionieri e venir voglia di liberarli. Voi vi sentite colti nell'animo per questi esseri senzienti, che sono esseri senzienti, i topi non sono diversi dai conigli, sono un po' più piccoli, un coniglietto e un topino sono uguali. Ecco, perché per il coniglietto si fanno le campagne e per il topino no? Cioè il topino no, è cattivo, porta le malattie, vabbè, ho capito, il coniglio che lo mettono nella conigliaia, lo allevano, ma se facessimo una topaia, nella topaia ci sarebbero i topini, nascono sani, non hanno nessuna malattia, perché non vi fate le belle topaie, non allevate i topolini e non ve li portate in giro per casa? 800240024, uomini e topi, un rapporto senz'altro ancora non risolto. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento Melog, cronache meridiane. Rebella, devi cantare con me. Cantare con te? Ma che cosa? Strapazzami di coccole, è tanto che non me ne fai più. Va bene, va bene. Finalmente ci sono riuscito. Prego, maestra. Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nespole, nespole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le piatti. Poi chissà perché i topi fanno schifo a tutti. Ci organizziamo per sterminarli. L'immaginario dei bambini è sempre stato pieno di topi. Il topolino che ti porta la monetina, tu lasci il dentino sotto al bicchierino. Topolino, Mickey Mouse, siamo nati con Topolino. Topolino, Tipetap, Minnie, tutti i topi. La topa con le scarpe, con il tacco e con il fiocco sulla testa, era Minnie. Geronimo Stilton, cos'è? Un topo anche lui, un talpone, è un topo. Geronimo Stilton è un topo a tutti gli effetti. Ratatouille è un topo chef, un topo che sta in cucina. Siamo pieni di immaginario riempito di topi, per qualcuno anche di topesse, però chissà perché ci poniamo il problema dello sterminio dei topi. I topi vanno comunque sterminati, bisogna capire anche in che maniera, in che modo. E vi siete mai occupati dello sterminio individuale del topo? Io nella campagna in cui vivevo, la caccia al topo era uno dei passatempi che impegnava tutta la famiglia, nonni compresi, e c'erano vari sistemi di caccia al topo, con scope e ramazze le donne, con frecce fatte con le stecche d'ombrello e qualcuno più fortunato con la carabina Flaubert e gli uomini, se no a sassate, si cercava il topo in tutte le maniere, una bella caccia. Ma siete mai incappati in un topo? Avete paura del topo? Credete nelle leggende dei topi che escono dalla tazza del gabinetto, dal buco del bidet, che entrano lungo le tubature? Vi è mai successo qualcosa del genere? Qual è il vostro rapporto con i topi, ammesso che è possibile avercene uno? Lorenzo. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, lei chiedeva come mai nessuno difende i topi. Sì, perché non fanno pietà ai topolini. Solo una, questa è una delle tante domande che ci faremo oggi. Poi parleremo del rapporto uomo-topo e delle città da derattizzare, che è il vero problema. Però mi pongo a questa domanda, perché non fa tenerezza al topolino piccolo? Non lo so. Sì, ma può anche far tenerezza, per carità di Dio. Il problema è che sono tantissimi topi, ecco perché nessuno si occupa di loro, comunque si preoccupa di loro. Perché sono tanti, nessuno gli deve voler bene, scusi. Le altre specie quando sono in surplus, quando sono... Ma anche i bambini cinesi sono tanti, anche i bambini africani sono tanti, però fanno tenerezza, bellini, si vedono in tutti i cartelli, vabbè, aiutami. Non può paragonare i bambini con i topi, no? Come no? Scusi, ma posso paragonare i maialini con i bambini, posso paragonare le pecorelle con le bambine, sono esseri senzienti anche loro. Sto apprendendo quella che è la nuova civilizzazione, quindi in questo caso perché con i topi non si paragonano? E il tenero agnellino a cui Berlusconi dà l'atto con il biberon. Se gli anellini fossero tantissimi, stia sicuro, tranquillo. Ah, gliene frega niente a nessuno. Ah, e quindi la rarità è data. Certo, e comunque a Firenze gli potrei rispondere: non ci preoccupiamo dei topi, ma delle tope. Aspettavo questa battuta, così, grazie, me l'ha fatta subito. Così, anche le tope, anche quello può essere un problema. Nessuno le vuole derattizzare quelle, nessuno dice sterminiamo le tope. Vede che c'è ancora una sorta di discriminazione ulteriore, anche sessista. Il topo in sé non soltanto fa orrore, non soltanto porta malattie, tutti lo vorrebbero morto. Mentre se uno dice la topa, in realtà no, quella tutti si dà di gomito. Ah, topa, topa, ci piace la topa. Vabbè, ho capito, l'abbiamo detto. Sergio Dell'Edera, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Andiamo a parlare di problemi seri e concreti, sennò divaghiamo sulle chiacchiere. È un dato di fatto che i topi in realtà sono un problema. Sergio Dell'Etera è tecnico della ditta Verde Idea di Roma, da 24 anni si occupa di derattizzazione, quindi ha una bella esperienza. Prima domanda, il problema è cresciuto, com'è oggi se ne parla tanto? 10 anni fa, 15 anni fa c'erano gli stessi topi e non erano un problema sociale, oggi viene fuori come problema sociale. Sono cresciuti, aumentati? Ma allora, io credo che i topi ci sono sempre stati, il problema è che il modo come noi ci rapportiamo, d'estate sicuramente il fenomeno aumenta perché la gente è più presente sulle strade, fa le ore piccole e quindi loro purtroppo hanno necessità spesso di arrivare nel nostro ambiente, loro ne farebbero a meno di invadere la nostra area praticamente, anche perché gli unici animali che temono sono proprio gli uomini praticamente, quindi sicuramente non c'è una poca attenzione da parte ma quando loro vengono in superficie perché hanno fame e cercano qualcosa? Allora, noi dobbiamo dividere due grandi branche, sono i topi, che sono una cosa, e i ratti, che sono un'altra cosa. E qual è la differenza, colpo d'occhio? Sono proprio diciamo morfologicamente, i topini, come diceva lei, sono i topini, sono il muscus domestico. Sono è il topino topini, quello carino, ecco. Sì. Musini simpatici, orecchie grandi, occhioni grossi. Il ratto è cattivo. Invece è quello del ratto di fogna, che è un topone grosso. Tutto irzuto. Atteggiamenti diversi con noi. Il ratto è molto diffidente, odia venire in ambiente in superficie, tutto quello che trova mangia. Il topolino invece è un animale che esplora, gira, vaga, mangia tante volte durante il giorno. Ma convivono, cioè le città, il problema delle città sono i ratti, no, i topi allora? Sono due cose diverse, i topolini non convivono, hanno ambienti diversi di colonizzazione. Il topino, quello di campagna, che poi ci sono due tipi, uno un pochino piccolo, quello più simpatico, uno un pochino più grosso, e vivono in ambienti completamente diversi del ratto. Il ratto vive proprio in fogna, ha bisogno di un ambiente diverso. Noi il problema, quello che abbiamo noi spesso a Roma Centro, è il rattone, è il ratto proprio che... È la pantegana, quella detta pantegana, è quello? O è un'altra cosa? È quello praticamente che più sporcizia c'è, più si riempiono le fogne, non c'è un'attenzione. Una volta si facevano le gassificazioni delle fogne e che cosa non si fa più perché è proibito ormai anche... E com'era? Facevano una camera a gas e morivano tutti i topi dentro? Sì. Fino a quando però è stata fatta? Fino a quando cambiato tantissimo. Fino a quando è stata fatta? Mi scusi, signore. Ma io credo che l'ultima fu fatta quando fu fatto la ristrutturazione delle piazze Cavour che fecero. È recente però, è recente. Sì. Adesso è completamente proibito. Adesso sono ormai anche l'Animal Welfare europea ci vieta i metodi di cruenza. Ma perché è vietato? Perché è pericoloso per gli uomini o è una cosa cattiva verso i topi? Allora, ci sono due filoni. Uno perché per l'inquinamento, per gli animali non bersaglio che potrebbero praticamente uccidere animali non cui non è destinato. Ma che c'è nelle fogne oltre ai topi che dobbiamo salvaguardare? Tenga conto che il derattizzante va a finire, lo si ritrova anche negli uccelli, no? Perché loro si nutrono degli animali morti e poi si riscontrano in altri. Vabbè, se si sterminano un po' di gabbiani e piccioni non è che nessuno piange. Io non sono troppo piccolo per decidere, però poi c'è anche il progetto della, diciamo, c'è chi è molto attento a come muoiono questi animali. Soffrono, col gas soffrono. Certo, ma anche le trappole, quelle che tagliano la testa, la vecchia molla che scattava sopra loro, dice che alcune sono state proibite perché sono molto cruenti. Quindi c'è un sistema umano per come l'iniezione letale per ammazzare i topi. Stiamo cercando, non io, logicamente c'è gente che sta studiando, proprio per trovare dei sistemi meno cruenti per ucciderli. Allora, fermo un attimo, scusi, perché vediamo, io do anche parola agli ascoltori, lei ha toccato un argomento che ha subito suscitato l'interesse del nostro pubblico. Giovanni, buongiorno. Pronto? Il nostro esperto in derattizzazione ha appena accennato ai sistemi, diciamo, le metodologie umane o disumane per sterminare i topi. Ne sa qualcosa lei? Pronto? Sì, l'ascolto. Sì, guardi, ho solo sentito dire recentemente che il sistema adottato qui, io ho visto a Ponte Mammolo qui a Roma, c'era un'enorme colonia di topi, dove c'erano dei castori della Mondezza. Ma si vedono girare per strada? Non ci sono più, so che sono stati sterminati con sistemi che dicono crudelissimi per quanto riguarda la loro gassificazione o il loro avvelenamento. Ecco. E come li hanno sterminati a Ponte Mammolo? Prego? Come li hanno sterminati? Qua Guardi, questo non lo so, ho visto che non ci sono più, però mi è stato, ho sentito recentemente proprio dire che lo sterminio di questi animali avviene attraverso avvelenamento, gassificazione, non so, si è parlato poco fa di gassificazione. I gas c'è, non è più possibile usarlo il gas. Prego? Non è più possibile per legge. Non è più possibile, quindi si tratta di veleni che soffocano questi animali senza farli morire subito. E quindi questo è un sistema che bisognerebbe assolutamente rivedere. Perché soffrono? Poi posso dire di aver letto a suo tempo un pezzo della memoria di Hitler che diceva che viveva in sottoscala e ha fatto amicizia con i topi che abitavano con lui da subito dopo la prima guerra mondiale. Beh. Era proprio in amicizia, diceva. Ogni tanto venivano a gli dare qualcosa da mangiare. Pensi un po' che storia. Vabbè, questo capita, ci sono storie nella letteratura carceraria piena di ergastolani con il topolino che poi vadano e sportano il topolino dietro e via dicendo. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Lei usa il metodo casalingo, mi sembra. Io purtroppo sono vivo con i topi, perché io vivo in mezzo ai topi. In che città? In che città è? Vivo in una casa infestata. Ma dove? Quale città? Io sto nel Mugello, sto a Gattaia, l'ultimo avamposto del comune di Vicchio. Cioè Gattaia è invasa dai topi, è un, davvero? È un paradosso. Gattaia è Gattaia, ma gatti ce n'è fuori. Allora, da Gattaia come si comporta lei verso i topi? Ma senti, l'ho provato di tutte. Siccome ho anche due cani, per cui non posso mettere il veleno, perché se no mi muoiono. Ma il cane caccia il topo, sì, se vuole. Alla grande sì, la grande sì, infatti ne ha ammazzati diversi. La piccola no. Però gabbiette, la pistola quella a pallini a aria compressa. Ormai le gabbiette non me le cagano più proprio. E mica sono scemi, la gabbietta va a stare a vedere, sono due risate. Dicano me ne vado, guarda. Sì, ma è un sistema anni 50. Ma anche io c'avevo le gabbiette che metteva il pezzettino di formaggio dentro, ma non funzionava. Sì, poi scattano a molla, no? Sì, ma non sono roba vecchia quella. E no, quindi... ma non funzionano. E lei allora quale ha trovato il sistema adatto per i topi? Ma niente, sto aspettando che se il comune mi dà la casa me ne vado da qua, perché qui è diventato un letamaio e basta. Ma sai, se si aspetta al comune, qui ci si può morire tranquillamente. Vabbè, adesso non faccio la rivendicazione, voglio sapere esattamente il metodo. Lei cosa fa? Li aspetta la sera a pastura? Mi metto alla televisione, quando passano sul mobiletto gli sparo con la pistola a aria compressa. Perché entrano dentro casa proprio, tranquillamente? Certo, no, tranquillamente. Ma sono attirati da quali programmi? Cioè per guardare la televisione entrano? No, entrano perché vanno a cercare, addirittura non ci hanno anche figliato in casa dietro l'armadio. Ci hanno fatto il nido dietro l'armadio? Sì, ma non è la prima volta. Cioè i topini, la topa, tutto dietro l'armadio che facciano i figli? Gianluca, ieri sera me ne è passata una a un metro di distanza che era grossa come un gatto. Ha fatto in tempo a sparare? Sì, seccata. Seccata al primo colpo? Seccata al primo colpo, ormai ci ho fatto l'abitudine, sono diventato... Infatti per quello ti volevo invitare un giorno, ho detto, no, ti volevo andare a caccia con me. No, vabbè, mandami delle documentazioni, fotografie. Poi una volta che spara fai, lo prendi per la coda e dove lo metti? Nella spazzatura? No, per forza. Ma dove lo metti? Nell'organico, sì, nel cassonetto dell'organico. Nell'organico, per forza. C'è il sacchettino nell'organico, beh, giusto, la raccolta differenziata. Allora, Sergio Deledera, torniamo al sistema industriale. Allora, il signore di Ponte Mammolo che dice che è stato usato il gas, mi sembra difficile, no? No, hanno utilizzato sicuramente un rodenticida, quello che è previsto da legge, sono quattro, ormai i principi attivi sono rimasti solo 4 o 5 che possiamo utilizzare. Questo dice del soffocamento, sì, perché impediscono l'aggregazione tra l'ossigeno e l'emoglobina. Muoiono soffocati, quindi. Sì, perché praticamente sono gli ultimi, quelli che ci permettono adesso di utilizzare. Tenga conto che non però non è bello, se tutti i topi che si sbattono lì, è brutto vederli però. Perché? Per un motivo molto semplice, i topi hanno una memoria a breve durata. Allora noi non possono, i topi quando noi li avveleniamo non muoiono subito, ci mettono 3 giorni più o meno, perché devono ricordarsi di morire, per perdere la memoria sul cibo che hanno mangiato. Perché se no loro praticamente sono molto organizzati e ogni volta che si trova del cibo nuovo loro mandano un topo più debole, più anziano. La cavia che sta lì. Se lui muore poi loro non toccano più quel cibo e quindi la necessità di utilizzare dei prodotti che non portino morte immediata, ma che possa cancellare la memoria. Quindi come una volta facevano i sovrani, gli imperatori, hanno l'assaggiatore del cibo. Vede gente che vede molto, sono molto vicini a noi, e tenga conto che sono gli animali che hanno il senso d'adattamento dopo l'uomo maggiore. Infatti praticamente noi parliamo sempre che è onesto parlare di controllo di popolazione, mai dello sterminio con il proprio cliente. Quindi le controlla, diciamo, fa quello che la natura non riesce a fare, perché vivono in un ambiente che non è più l'ambiente naturale per loro, bisogna controllare. Che se non li controlla poi è un problema, la colonia cresce. Certo, e quello comporta i danni. Loro, diciamo, noi possiamo tranquillamente conviverci, tenerli a distanza, perché comunque portano, sono storicamente stati portatrici di grandissime devastazioni, pesti e cose del genere, ma quello è colpa dell'uomo, perché l'uomo non tiene pulito, non tiene organizzato, però controllandoli, gestendoli, ci sono adesso dei nuovi metodi diciamo più naturali per poterli catturare senza l'utilizzo del loro tonticida. Solo una cosa, una cosa, poi ci fermiamo solo un secondo, poi riprendo con lei. Quanti sono i topi a Roma? Lei un'idea di censimento? No, è impossibile. Non lo so, però comunque non ci manca lavoro, quindi non è un problema. Quindi è un lavoro, diciamo, ecco, come il beccamorto, lo sterminatore di topi trova sempre lavoro. Poi c'è molta attenzione ormai nell'agroalimentare, e ormai praticamente anche le leggi obbligano praticamente a chi fa manipolazione, chi fa utilizzo del cibo praticamente, di stare molto molto attento, questo non soltanto ma i topi, anche altri. Allora, fra un istante riprendiamo con Sergio Deledere, ci spiegherà esattamente il tipo di azioni che si fanno. Sarà un'azione collettiva, un'azione di massa e un'azione più mirata. Uno ha un ristorante, ti chiama e dice: guarda, ho dei topi che mi disturbano, e come si procede in quel caso lo sapremo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Expo 2 anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco, che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit, al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24, dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Melog, cronache meridiane. Pensavi che sarei rimasto a casa per sempre con te? Prima o poi i passerotti devono lasciare il nido. Noi non siamo passeri, siamo topi. Noi non lasciamo il nido, casomai lo facciamo più grande. Forse sono un topo diverso. Forse non sei affatto un topo. Forse è meglio così. Ehi, che forte il gruppo di stasera, eh? Topi, non facciamo che rubare. Sono stufo di rubare. Io voglio creare, voglio aggiungere qualcosa di mio a questo mondo. Parli proprio come gli umani. Che non sono così cattivi come dici. Naturalmente, se c'era la Marsigliese, era Ratatouille, il topo sciame, una bellissima storia tenerissima, che vuole sfatare il luogo comune della schifezza del topo. Ratatouille è un topolino carino, sta in cucina, il topo in cucina farebbe non ridere chiunque, ma lui è uno chef sopraffino e riesce a vincere tutte le gare culinarie, anzi le fa vincere al suo padrone protettore, al suo amico umano. 800 24 00 24, stiamo parlando di topi, del difficile rapporto con i topi, perché da un certo punto di vista li ammiriamo per la perfezione della loro società, sappiamo che ci sopravviveranno, qualunque sia il cataclisma che sterminerà l'umanità, i topi resteranno, questo è poco ma sicuro. Noi no, loro sì, però finché ci siamo anche noi cerchiamo di tenerli lontani, e cerchiamo di tenerli lontani con tutti i sistemi. Ci sono anche i sistemi specialistici che ci sta raccontando Sergio Deledere, che è un tecnico della ditta Verde Idea di Roma, e lui da 24 anni derattizza, ma anche sistemi più empirici. Uno si deve arrangiare, il nostro ascoltore di prima la sera si mette davanti al televisore con la pistola aria compressa in mano, quando passa il topo lo secca. E invece Massimo come fa? Massimo, buongiorno. Buongiorno. Niente, io ho sentito una trasmissione, adesso non ricordo perché sono passati giorni, dove a New York una dottoressa ha fatto uno studio e ha trovato un enzima, un ormone, se non ricordo esattamente, non sono un tecnico, che fa sì che rende sterili le tote, insomma, quindi così si chiama, no? Lo so che è difficile pronunciare questo nome senza che venga il sorriso, ma c'è un enzima a New York che rende la topa sterile, la topa in quanto moglie del topo, esatto, la moglie del sorcio, moglie sterile, del che peggio ancora, pensano di arrivare nel giro di qualche anno da 5 milioni a 500 topi. Sì, ma come fa? Bisogna prendersi la topa in mano una per una e inocularla. Nel mangime che danno mettono questo. Metto l'enzima. Sentiamo se Sergio Dell'Edera, che la sa lunga, ha sentito parlare mai di questo enzima che rende sterili le topi? Ma molto probabilmente, come l'hanno fatto altri esperimenti su altri animali, ci sarà sicuramente. Bisognerà poi vedere se è possibile farlo, come farlo. Io adesso non... Tra il dire e il fare poi c'è sempre di mezzo. Ancora, diciamo, in 24 anni com'è cambiata la tecnica, diciamo, della regolazione, della regolamentazione della società dei topi? Moltissimo, tenga conto che io faccio una piccola denuncia, tenga conto che noi non abbiamo ancora neanche l'albo, quindi disinfettatore può essere chiunque, questa è grave. Denunciamolo questa cosa che è importante, che hanno tutti l'albo tranne noi disinfettatori che utilizziamo poi prodotti molto pericolosi. Comunque questo è molto interessante. Adesso c'è una cosa che invece mi interessa molto. Allora, per fare disinfestazione occorre conoscere delle regole e maneggiare prodotti molto pericolosi. Però lo può fare chiunque, anche lei domani mattina si va a commercio, non so si che fa fare la sua iscrizione. E deratizzo. Si deratizza. Scusi, ma i prodotti per acquistarli non occorre un patentino? No, assolutamente no, perché non sono fitosanitari, sono prodotti che possono essere acquistati da chiunque senza nessun tipo di richiesta, tant'è vero che sono venduti al banco, no? Se lei va in qualsiasi ferramenta, compra la... Sì, il famoso il pasticcone, quello che si muore dopo 3 giorni, lo può comprare chiunque. In tutti ne ha una scorta perché ha dei topi nella sua cantina, il mio collega che ci sta seguendo. Tenga conto che la stessa normativa europea applicata in Francia, che applichiamo noi o in Germania i prodotti del banco sono stati eliminati, mentre in Italia ce l'abbiamo, hanno solo cambiato qualcosina, ma vendiamo. Ma quindi nessuno pensa al rischio, non ci ho messo un albo, perché se io compro un barile di veleno, in teoria potrei avvelenare l'acquedotto di una città, nessuno mi registra. Sì, basta, lo compra a mezzo chilo per volta. Lei va in ferramenta, chiede mezzo chilo, il ferramenta, la signora Maria può andare in ferramenta, comprare mezzo chilo, invece di mezzo chilo, intanto quello della ferramenta gliene vende anche 10 pacchi, e ne ha già comprati 5 chili. E quindi lei con 5 chili può avvelenare tutto quello che vuole, qualsiasi tipo di animale, cane. Ma anche gli umani. L'avvelenamento dai cani è penale, però noi disinfestatori passiamo penale, ma la suora Maria non può. Abbiamo scoperto un problema. Cosa chiedereste voi? Che venga fatto un esame, diciamo, di qualificazione? No, dovrebbe esserci un albo, un albo dove ci richiede una professionalità, si richiedono delle caratteristiche minime di gestione, e noi siamo legati al settore delle pulizie, quindi tenga conto che le pulizie è una cosa, ma disinfestatori è un'altra. Cioè voi vi causate la varichina, il veleno, una cosa diversa. Sono diverse secondo me, però vabbè, questa è una piccola denuncia. Però le faccio un altro esempio: se io a casa ho un'invasione ai topi, devo chiamare un derattizzatore o posso farlo da solo? Io credo che praticamente sarebbe buono chiamare un derattizzatore. Certo, chiaro. Perché innanzitutto bisogna vedere, prima porsi il problema, come sono arrivati. Allora, io innanzitutto noi si parla di, ci piace tanto parlare l'inglese, che è il proofing, cioè bisogna vedere praticamente da dove sono arrivati. Bisogna fare un tracciamento del topo. Certo, è arrivato, chiudere le porte di accesso, all'estero sono molto bravi su questo, si costruiscono le case che impediscono l'accesso ai topi praticamente, alle blatte, ai topi, sono tutti quegli animali che non sono indesiderati. Ma entrano anche dalle tubature, è vera questa storia? Ma guardi, allora, loro qualsiasi spazio che ricevono, che trovano, si infila dappertutto il topo, certo. Possono infilarsi facilmente, dove passa la testa passa tutto il corpo. A me è capitato una volta la storia del topo che esce dalla tazza, è vero, però lì ci fu un grandissimo errore, che andarono a fare la ditta di Spurgo a fare praticamente delle pulizie, ruppero i pannelli d'accesso, diciamo, di Arrafammi, e praticamente c'era un canale diretto tra la tazza e la fogna principale. Qui poteva salire più tutto, coccodrilli, topi, era terribile. Praticamente, però mi è successo una volta nella vita, poi non l'ho visto, ma me l'ha raccontato la signora. Questa cosa evidentemente è una manutenzione errata che viene fatta spesso, perché i topi che escono dal water mi è stato riferito da più persone che vedono il topo e chiudo. Fermo un attimo, Lorenzo. Ciao Gianluca. Lei ha inventato una trappola per topi? No, io in realtà mi sono avvalso di un ritrovato degli Stati Uniti. Mm. Ho comprato su eBay tempo fa, quando abbiamo scoperto un grosso ratto qui nella stanzetta della caldaia, dove anche teniamo insomma l'indifferenziata, la differenziata. Cioè, beh, c'è la spazzatura, loro vengono lì, certo. È chiaro, è chiaro. Si tratta di una scatoletta dove entra il topo, attratto da, ad esempio, da noccioline o da burro di noccioline. Quindi è una trappola con un buco che entra dentro nella scatola. È una trappola, però è molto interessante perché il topo non appena entra muore per una sorta di elettroshock. Ah, una camera elettrificata per topi. Ma è interessante perché quando il topo non c'è dentro, noi vediamo una lucetta verde, quindi noi possiamo tranquillamente infilarci un dito, qualunque cosa vuole infilarci, la infila e non succede niente. Quando vediamo la lucetta rossa, significa che il topo purtroppo per lui ha abboccato. E in quel caso si svuota la scatola? Sì, si svuota la scatola e si riutilizza. Pare che vada molto in voga negli Stati Uniti perché dicono gli esperti che il topo muore senza soffrire. Senza soffrire. L'ho utilizzato anche per i topi che purtroppo ho dovuto studiare, che avevo sul tetto, cioè che esistono razze di topi. Al topo da tetto. Cioè il cosiddetto Rattus rattus, vedi, mi sono informato Gianluca, purtroppo. Avevo i topi sotto le tegole del tetto. Al topo da tegola. Sì. E sempre con la camera elettrica la riuscita a sterminare. Anche in quel caso li abbiamo sterminati, quindi io suggerisco. Ma come si fa a svuotarla? È una cosa un po' fastidiosa però. No. Allora, non si tocca minimamente il topo, perché la scatoletta appena lampeggia la luce rossa, quindi sappiamo, diciamo, anche la coda che fuoriesce, che c'è il topo, si apre in maniera comodissima. Ah, quindi la coda esce fuori? Certo, sì. Quando sì, non si muove più la coda e la luce rossa è accesa, è morto. È evidente che la morte, la vecchia mugnaia. La scienza riesce sempre a arrivare a vette che inimmaginabili. Però, insomma, la spesa è anche minima. Io non, quanto dico, costa la scatolina? Apporto la mia esperienza, l'ho acquistato su eBay sulle 40 euro. Ma va a pile o attaccata alla rete? Come funziona? La rete? No, a batterie, 9 volt. A 9 volt bastano per ammazzare un topo. Ah, questo è interessante. Sì. Ma su eBay si vedono un sacco di tutorial. Purtroppo c'è gente su YouTube, cioè, che si diverte, forse magari. Beh, te insegna come bello, si fa. Lo so, però. C'è gente che si diverte dicendo: guardate come sono riuscito a catturare il topo. Quindi fanno vedere questa scatolettina, la filmano, si vede il topo che certo, arriva, è un normale che rimane tutorial. Ficcato da questo elettroshock e via. Questa è una notizia interessante, adesso ci confronteremo, già stanno arrivando altri sistemi artigianali di caccia al topo, fra un istante ve li racconteremo tutti, molti sono veramente ingegnosi. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo entrando nel vivo, l'ingegno degli ascoltatori, nell'arte antica e perduta di acchiappare e uccidere il topo in maniera casalinga. Giuseppe, buongiorno. Sì, pronto. Lei che sistema usa? Ma senta, è stato un caso per cui ho scoperto come si possono acchiappare i topi. Può brevettarlo, se è un sistema che funziona può anche brevettarlo. No, si prende un bidone alto più o meno un metro. Un metro, un bidone di un metro, poi cosa si fa? Un bidone di un metro, con una bocca circa di 30 centimetri di diametro. Un metro per 30, sì. Ecco, si fa in fondo al bidone si sparge un mangime da polli, quello a base di Gran Turco. Sì, che è difficile trovarlo in città, però uno si adatta, sì. In città non è così facile trovare mangime per polli, ma uno si dà da fare con del Gran Turco. No, ma penso che si trova, insomma. Ma chi è che alleva le galline in città? Nessuno. Però, vabbè, comunque ci si mette un mangime del Gran Turco. Allora, sì, questo è successo per caso, no? E poi questo bidone va fatto in modo che, non so, avvolgerlo con una balla, qualcosa per agevolare la salita del topo fino alla bocca. Mettere una scaletta che possa salire, certo. No, una balla, perché loro si arrampicano. Un sacco di iuta, traduco, sì. Una stoffa, un cencio, qualcosa che al di fuori agevoli la salita. E una volta poi dentro? Si buttano dentro e non riescono più a uscire. Ah, non risalgono il metro loro? No, da dentro no, perché dentro ovviamente. E quanti, quanti ne ha presi lei con questo sistema? Guardi, tutte le mattine ce n'era 5-6. E poi che ci fa? Deve ammazzare però dopo? Ecco, dopo bisogna ammazzarle, quello è... E come fa quello? Lì piange il cuore. Lo so, dispiace. Ognuno poi può fare quello che vuole, io... non so, affogarli, scusi, insomma, è complicato, ma... piuttosto, io sono anche animalista, mi sento pensi se non lo era che faceva stringere il cuore proprio non, d'altra parte come si fa, si fa mica... quindi riempie il bidone d'acqua e aspetta che affogano, così fa. Di tutte le taglie c'erano da 300-400 grammi fino a quelli piccoli, li ha pesati poi dopo una volta che l'ha presi. No, così a occhio. Vabbè, topi da 300-400 grammi. Perfetto. Allora, Luca, buongiorno. Luca. Oh, Gianluca, buongiorno. Io ti ascolto sempre perché è sempre toccante. Beh, oggi tu vuoi sempre provocare. Mi sembra di capire che l'argomento preferito. Sì, si è scatenato ancora una volta il tuo Vespa. Quello che volevi. Qual è il tuo contributo a questo Vespa? Il mio contributo. Beh, io, oltre ad essere un grande collezionista, quelliere antiche per uccelli, ho ampliato la collezione con una serie incredibile museale di trappole per topi. Ah, un collezionista di trappole per topi, quindi sì, di tutte le epoche le hai? Tutte le epoche, dall'Ottocento, perché mi ha sempre incuriosito l'evoluzione, lo spirito, l'ingegno dell'uomo. Allora, fammi una rapida cronistoria, come si è evoluta la trappola per topi nei secoli? La partenza è stata cruenta, perché sicuramente non c'è la sensibilità che c'è adesso. E com'erano le prime? C'è l'ipocrisia di voler uccidere senza farlo soffrire. Com'è possibile? Se io voglio uccidere, devo ucciderlo, punto e basta. E come le prime com'erano allora? Le prime erano sicuramente a strangolo, a ghigliottina. Ah, una ghigliottina che gli tagliava la testa? Assolutamente, proprio non era neanche possibile, era oscena la cosa da vedere, anche da spiegare, perché... non c'erano mezzi, una via di mezzo. Crudelissimo. Poi si è evoluta fino a quando arrivare adesso. Ma ce n'è una curiosa con i chiodi. L'animaletto entra in una sorta di percorso obbligato. Ma verrà dall'India, sarà una trappola che fanno i fakiri, per topi fakiri. Viene fiocinato, sì, ma è lì poi... Come? Una fiocina che scatta e trapassa il topo? Con i chiodi, sì. È una cosa, è museale questa, è una chicca che ho trovato in un mercatino. Ma tu hai mai provato a metterli in un ambiente infestato di topi e vedere se funziona? No, perché oggi il topo si è evoluto in una maniera. Vede la fiocina, ti fa una risata. Io ricordo un giorno sono rimasto scioccato da un topo che saliva 10 metri spingendosi con le zampe posteriori lungo il canale pluviale. Pensa, è una roba, uno spettacolo che consiglio a tutti e si rendono conto veramente di quanto il topo è arrivato. Secondo me, in conclusione, scusami, non voglio più rubare tempo, però per esempio qui da noi, io abito a Bergamo, per noi un topo per strada diventa un fatto di cronaca. Io credo che lo stupore non sia nel... Ma Bergamo alto o Bergamo bassa? Che è diverso. Questa domanda però te l'ho servita, ti ho fatto un assist. No, Bergamo bassa. Per in alto non ci arrivano i topi. I topi da alta, sì, ci sono troppi pluviali, arrivano anche tutta dall'alta. Pulita, non c'è manco il... Non voglio essere però... Sì, però scusa, però tu parli di una città dove la raccolta, la sera alle 8 mettete fuori il sacchetto, dopo 10 minuti non si vede più un'ombra di spazzatura in tutta l'altra faccia della luna. Sì, devo dire che un plauso va ai bergamaschi. No, è fantastica. Una sera, passavo per Bergamo, alle ore 20 meno qualche minuto, davanti a ogni casa c'era un sacchetto perfetto, tutti colorati, uguali, puliti, veniva voglia di abbracciarli, passano più 10 minuti e non c'era più niente, ma che è? Cioè, quella è la spazzatura, fine, non c'è altro. L'intelligenza sta nello farli arrivare. Lo so, infatti, grazie. Perché poi, voglio dire, quando arrivano poi i topi... Si viene a vedere davanti a casa mia, c'è di tutto, capito? Da pannoloni per incontinenti usati a materassi, c'è di tutto. Ogni mattina c'è la fantasia di quello che buttano. E vabbè, abbiamo capito. Mary, chiudiamo con Mary, poi sentiamo il nostro ospite, ci fa una conclusione. Mary c'è ancora? No, Mary è scomparsa. Allora riprendiamo con Sergio Deledera, che ricordo, della ditta Verde Idea di Roma. Sono 24 anni che si occupa di topi. Ha mai sentito queste trappole antiche fatte con... Sì. No, sono antiche, diciamo quelle elettriche le utilizziamo anche noi, si utilizza l'idea del topo, cioè che ha di cercare nuovi ambienti e quindi si costringe in queste... Sono per piccole operazioni però, per piccole operazioni. Sì, beh certo. Le piglia certo, uno per volta. dove non si può utilizzare il derattizzante, in ambienti dove è vietato utilizzarlo, perché noi sono ambienti dove è vietato proprio, per la cattura, cioè, o si usano delle trappole a cattura, che comunque cerchiamo di utilizzare la voglia del topo di cercare ambienti nuovi. Ma quelle robe gialle che ho visto nel mio condominio, che sono delle scatole gialle per terra con scritto derattizzazione? Quelle sono la normativa obbliga, anche c'è un'ordinanza del Comune di Roma che obbliga che il derattizzante non va più messo, buttato nelle bustine finché si usava qualche anno fa, ma obbligatoriamente all'interno di questi box, che praticamente devono proteggere eventualmente. Beh, uno che c'ha un cane ci sta attento almeno, ecco. Ecco, certo, poi vanno debitamente segnalate. Sì, è pieno di trappole gialle. Sì, purtroppo invece c'è stata una cattiva abitudine praticamente che, di non segnalare queste trappole, di farne un uso diciamo non proprio, e anche la trappola del bidone, sono trappole che adesso ci sono delle trappole che non si usa più il derattizzante, ma si utilizzano del mangime per farli cadere all'interno di un macchinario che praticamente poi vengono affogati. Anche questo l'animal welfare ha messo in discussione, che la morte non è delle migliori. Bisognerebbe fare un'inchiesta sui topi, preferite morire. Sentiamo un attimo Giacomo. Giacomo, lei ha trovato un sistema umanitario per sterminare i topi? No, è un sistema estremamente cruento. E come fa? No, non l'ho fatto io, l'ha fatto un giardiniere che veniva a curarmi il giardino. Una volta ha detto ci penso io, ha catturato un topo in giardino che era invaso da topi. E devo dire che è stata una cosa raccapricciante. Comunque l'ha catturato, l'ha preso, gli ha versato dell'alcol, gli ha dato fuoco. Vabbè, ma... non le dico che cos'è successo, ma non ho mai più visto un topo in giardino. Ah, fa un'esecuzione capitale, cruenta, che si spaventano. Capitale come Giordano Bruno, la stessa cosa. Vabbè, i papi hanno bruciato un sacco di gente per lo stesso motivo, quindi sì, ha bruciato il topo, devo dire che ha squittito in un modo pazzesco, io ero rabbrividito. Ma non ho mai più visto. Però scusi, non si potrebbe registrare l'urlo del topo bruciato e come fanno per mandare via gli storni dalle città? No, non lo so, scusi, Sergio Dell'Edera, se veramente c'è questo urlo terrificante del topo arso, basta registrarlo una volta, se ne sacrifica uno. E come gli storni l'hanno cacciati così? Però da Roma. Dimenticano. Ogni tre giorni bisogna rimandare. Sì, è una pratica che io ho visto anch'io personalmente, si faceva un tempo, c'è chi lo fa in tempo di guerra, si faceva a farlo. No, ma anche recentemente lo fanno in tempo nelle campagne, si utilizza molto fare questa cosa. Cioè, se molto... dai fuoco a un topo, questo strilla tanto e gli altri se la fanno sotto per tre giorni, non si fanno vedere. Sì, no, per un periodo breve, comunque 3-4-5 mesi. È cruento, diciamo, è orrendo, è vero. Però pensiamo che anche i cristiani l'hanno fatto per tanto tempo, cioè la gente l'hanno sempre bruciata in un palo, streghe, uomini, stregoni, eretici, in mezzo a una piazza, l'hanno fatto anche nelle piazze sacrosante della città sacra di Roma, li bruciavano apposta perché la gente doveva spaventarsi e non era un bello spettacolo, ma ci stavano attenti. Vabbè, alla prossima, dei topi abbiamo dato.